Ricordate, A OR B equivale a vero or falso. Con l'operatore OR è sufficiente che una delle due condizioni sia vera per restituire vero. Quindi vero or falso sarà vero o falso.